Mangiare. To eat. Io mangio. I eat. Tu mangi. You eat, informal. Lei mangia. You eat, formal, or she eats. Lui mangia. He eats. Noi mangiamo. We eat. Voi mangiate. You eat, plural. Loro mangiano. They eat or you eat, formal, plural.